Voglio un pacco di weed, voglio un pacco di fig. Calma, ti calamari, cannabis, carta di Eurospeed. Passa montagna, cassa Eurospin. Fanta Gin, Exo, Cangelin. Tiro sul mio team. Sono fuori controllo, sono fuori di me. Fumo e prendo il decollo. Sono un cazzo di jet, Rolex ai polsi nei sogni dei miei. Oro Daytona, fuggi fiona a me. Il tuo orologio segna la tua ora. Io non so che ore sono e me lo dice lei. Sfilato in strada al semaforo rosso, semaforo rosso. Passano in due frati, tagliano il polso. Voglio comprarmi un quadrante costoso. Renderà migliore il tempo che trascorre. Il tempo passa, mamma aspetta e c'ha l'ansia. Prega dentro una stanza, spera che torni a casa. E fissa quell'orologio, per cui rischi tutti i giorni. Per cui stasera non torni, un altro metallo che stringerà i tuoi polsi, no. Orologi, orologi, dammi solo erba, fighe e tanti soldi. Orologi, oro oggi, dammi solo erba, fighe e tanti soldi. Siamo andati pronti, se facciamo i conti con chi non ha tempo nei cash. Tutti i giorni ce l'hanno già detto, meglio fare i bravi, fare come le persone normali. Ma il tempo non torna fra come il denaro che spendi. Quanto ne ho messo dentro a sti quaderni. Sognavo tempi migliori, ora sogno soltanto orologi più belli. Dorme le sfiori i capelli. Sto pensando a un piano per farmi chiamare Saturno e riempirmi d'anelli. Riempirci pure i miei fratelli. Tarati in casa piena di contanti. Cambiare vita mia madre prima che mi cambi. Prima che sia troppo tardi. Sudo uno sbirro davanti e continua a guardarmi. Il tempo passa, mamma aspetta e c'ha l'ansia. Prega dentro una stanza, spera che torni a casa. E fissa quell'orologio, per cui rischi tutti i giorni. Per cui stasera non torni, un altro metallo che stringerà i tuoi polsi, no. Orologi, orologi, dammi solo erba, fighe e tanti soldi.